Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati alla prima delle due puntate speciali estive di Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Chiudiamo il mese di giugno con alcune delle storie più significative andate in onda nel corso dell'ultima stagione. Oggi parliamo di giovani italiani espatriati per motivi professionali e che occupano attualmente posizioni di alto livello all'estero. La prossima settimana invece ci concentreremo su chi va oltre confine per formarsi negli studi. Partiamo subito allora con le prime storie, tornando alla puntata speciale che abbiamo registrato lo scorso anno con tre membri dell'Aspen Junior Fellows, network che comprende alcuni dei nostri giovani più affermati oltre confine. Sono Laura, 34 anni, romana, laureata in economia aziende alla LUISS, fuori dall'Italia dal 2003. Sono Alessandro Golcar, 31 anni, sono di Roma, ho lasciato l'Italia nel 2008, prima come studente negli Stati Uniti, poi per lavorare in Russia, ora sono un professore associato e direttore del centro spaziale. Sono Federico Raviglione, ho 27 anni, sono di Biella in Piemonte e ho lasciato l'Italia ancora prima di nascere visto che sono nato a New York. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. E allora l'indimenticabile Giorgio Gaber ci offre ancora una volta lo spunto per la nostra domanda provocatoria con cui iniziare l'intervista. Ci si sente più italiani fuori dalla penisola, Laura? Piace più essere italiani fuori dalla penisola. Alessandro? Beh, si è un po' ambasciatori dell'Italia nella propria professione. Federico? Io direi che vivendo per la maggior parte all'estero ho sempre sviluppato una specie di sentimento patriottico italiano fuori dall'Italia. E allora, domanda flash per tutti e tre, prima di raccontare le vostre storie. Quanto vedete attrattiva l'Italia in un'epoca di competizione sempre più globale? Attrattiva per i talenti, imprenditori, investitori, cervelli? Laura? Mediamente attrattiva. Alessandro? Beh, molto attrattiva. Federico? Io direi che rimane attrattiva in certi settori specifici che ci invidiano all'estero. E ora le vostre storie che abbracciano il globo dagli Stati Uniti fino alla Russia. Partiamo proprio dalla Russia dove si trova Alessandro Golcar. A Roma, la tua città, muovi i primi passi iscrivendoti alla laurea in ingegneria aerospaziale. Perché una laurea così impegnativa? Io sono sempre stato appassionato sin da bambino, astronomia, poi di volo spaziale, missioni. E ho deciso di fare il mio lavoro. E anche Laura Toia i suoi primi passi li muove a Roma, ma alla LUISS con una più classica, se vogliamo, laurea in economia aziendale. Perché? A quei tempi mi interessava molto avere molte carte da giocarmi. Economia aziendale mi sembrava la scelta migliore da questo punto di vista. E arriviamo a Federico Raviglione, italiano con un fortissimo background internazionale. Nasce a New York, attenzione, cresci in Francia e studi relazioni internazionali a Ginevra. Ti domando quanto la tua formazione in un contesto globale sia stata poi determinante nelle scelte di vita successive. Ma io è chiaramente il fatto di essere nato negli Stati Uniti e poi cresciuto tra la Francia e la Svizzera e poi in un environment molto internazionale ha chiaramente influito sulla mia scelta di studi e di carriera futura. E perché relazioni internazionali in Svizzera? Beh, perché mi è sempre interessato il mondo delle istituzioni internazionali e Ginevra, un po' come si sa, un po' il centro della diplomazia mondiale con New York, per cui per me è stata una scelta abbastanza logica, direi. Un tratto che vi accomuna sono le esperienze di scambio universitari all'estero. Tutti da studenti avete trascorso un periodo in un altro paese. Dove, ma soprattutto vi chiedo quale valore aggiunto hanno portato? Alessandro? Io ho studiato negli Stati Uniti e il valore che credo mi abbia portato molto è la consapevolezza di quello che è un po' l'Italia nell'estero e sapere che ci sono anche tante altre culture, tanti altri modi di relazionarsi e lavorare. Laura? Io ho studiato in Svizzera prima durante l'Erasmus e poi un master negli Stati Uniti, quindi per me in entrambi i casi mi ha dato la possibilità di allargare la mia exposure a un ambiente più internazionale, più ricco, che fosse anche molto interconnesso con il mondo del lavoro. Federico? Ho scelto di studiare un posto molto vicino all'Italia che sarebbe Sydney in Australia, ho fatto lo scambio là. Quello che mi ha portato chiaramente è il fatto di studiare in inglese, in un environment inglese, in un sistema di studi anglosassone che poi mi ha aiutato anche nella mia scelta di master. Ora chiedo ad Alessandro e Laura di dare un voto e un rapido giudizio sulla qualità dell'istruzione ricevuta in Italia. In un voto, Alessandro? 28, un buon 28, perché credo che la didattica sia molto buona, perlomeno quella che io ho ricevuto all'Università di Roma, magari le infrastrutture necessiterebbero un po' di più per dare opportunità di fare oltre che studiare. Laura? Direi che confermo, 9 su 10 alla mia esperienza personale, non ho niente da dire alla qualità, forse a livello di sistema servirebbe qualcosa che premi più le eccellenze. Federico, meglio il sistema svizzero o quello anglosassone? Sono diversi, il sistema svizzero è più rigido, diciamo più strutturato, più con tante ore di corso, quello anglosassone è molto più libero, si hanno meno ore di corso e si fa molto di più a casa per conto suo, per cui sistemi completamente diversi ma entrambi ottimi direi. E dove consiglieresti di studiare a un giovane che sta programmando il proprio futuro, in Italia o all'estero, Alessandro? Se si parla di ingegneria, tecnologia, un'esperienza all'estero è sicuramente formativa un po' per tutti, ma ci sono anche cose dove l'Italia è un'eccellenza nel mondo. Laura? Potendo in entrambi i posti, adesso che c'è la possibilità di avere il 3 più 2. Federico? Una cosa che è molto importante è studiare in lingua inglese al giorno d'oggi. Ottima osservazione. Veniamo allora a delle scelte. Alessandro, da sempre affascinato dall'idea di poter lavorare per la NASA, fa domanda di dottorato presso il Dipartimento di Aeronautica e Astronautica del prestigiosissimo MIT. 11 giorni dopo la laurea, la partenza. Quanto è stato difficile essere accettato, Alessandro, e quale ambiente hai trovato ad accoglierti? Apparentemente era stato facile, perché io ho fatto una domanda, ho visitato l'MIT, poi sono stato accettato. Poi dopo ho scoperto che l'acceptance rate era molto basso, era credo sotto al 10%, più vicino al 5%. Ho trovato un ambiente super competitivo, alle stelle, ma anche un ambiente che dà moltissime opportunità a tutti quanti. Anche Laura vola negli Stati Uniti dopo uno stage in una multinazionale della consulenza a Roma. E cosa vai a fare oltreoceano? Un MBA. Diciamo che il mio focus prevalente già allora iniziava a essere il mondo finanziario, quindi New York, se pensiamo al periodo pre-2008, era una scelta molto logica. E per paradosso, Federico fa il percorso inverso, iniziando il suo primo lavoro in Italia. Dove, per fare cosa, ma soprattutto che ambiente hai trovato professionalmente? Sì, è vero, qualche settimana dopo aver finito il master in Inghilterra, comincio con un classico stage alla Pallacanestro Biella, con quella società professionista di pallacanestro di Biella, uno stage nel marketing e nella comunicazione. Biella, la squadra è stata un'esperienza molto speciale, per me la prima volta che lavoravo nel mondo dello sport, dopo quello diciamo non ho più lasciato il mondo dello sport. Riprendiamo il filo della storia di Alessandro, ti abbiamo lasciato l'MIT, cosa ti hanno lasciato quegli anni di studio e lavoro negli Stati Uniti? Sicuramente dal punto di vista del lavoro, modus operandi americano, se vogliamo. E anche molti bei ricordi, ho lavorato alla NASA, quindi ho soddisfatto la mia ambizione. E l'ultima cosa che mi ha lasciato, tantissimi amici che adesso lavorano un po' in giro in tutto il mondo. Laura, tu torni in Europa nel 2008, all'inizio della crisi finanziaria. Perché la Gran Bretagna scegli e non l'Italia? Lavorando nel mondo della consulenza c'era l'opportunità di servire grandi aziende, diciamo che erano forse più partecipi, più protagoniste di un momento di grande cambiamento per il settore finanziario, quindi Londra era una scelta, come dire, era un polo inevitabile. Federico, la tua carriera assume i contorni di un vero e proprio globetrotter, a un certo punto lasci l'Italia, ti muovi tra Ginevra e Bruxelles, con quali ambienti di lavoro ti sei confrontato a livello di opportunità e anche meritocrazia? Sì, lascio l'Italia e torno a Ginevra nelle Nazioni Unite, all'ufficio dello sport delle Nazioni Unite, e poi un anno dopo alla Commissione Europea a Bruxelles. Ambiente, diciamo, ritrovo un po' il mio ambiente naturale, le istituzioni internazionali, dunque giovani provenienti da tutto il mondo che sono lì proprio per meritocrazia. Torniamo ad Alessandro, la tua carriera prende una svolta inaspettata, ti viene proposto di lasciare un paese dalle grandi opportunità come gli Stati Uniti per andare in uno per molti versi tutto da decifrare, cioè la Russia. Chi ti fa la proposta e per quale progetto? La proposta è venuta dal mio professore dell'MIT, che nel frattempo diventò il presidente o rettore di questa nuova università a Mosca, quando mi è stato proposto era letteralmente un greenfield, non c'era niente. La proposta era: aiutami a costruire parte di questa università. Qual è il tuo ruolo oggi, Alessandro, allo Space Center e Skoltek di Mosca? Io sono un professore, ho un gruppo di ricerca, ci occupiamo di satelliti ed in più faccio il direttore del centro spaziale, che ad oggi consta un centinaio di persone. Laura, invece, tu a Prodi in Gran Bretagna, spiegaci poi che direzione ha preso la tua carriera a Londra. Io sono approdata all'inizio, diciamo, nella legione straniera, nel senso che in realtà il mio datore di lavoro era italiano, poi nel tempo, servendo solo clienti inglesi, mi sono affezionata, mi sono anche sposata, diciamo, con un inglese, al che sono seguito un cambio di carriera molto recente, per cui da pochi mesi dirigo un'unità di pianificazione strategica presso una società di investimenti americana con sede a Londra. Federico, tu migliori ulteriormente il tuo curriculum con un FIFA Master in Italia, il migliore Sports Management Master al mondo, e il tuo giro del mondo alla fine ti riporta in Svizzera, a Losanna. Con quale ruolo? In Svizzera, le European Club Association, dove lavoro adesso, che è l'associazione che rappresenta gli interessi dei club di calcio europei, una specie di Confindustria del calcio, come è stata definita. E ora, rapidamente, le vostre riflessioni che avete inviato a giovanitalenti@radio24.it. Alessandro non si ritiene un cervello in fuga, ma parte di una più ampia generazione globalizzata, cioè... Io credo che l'espressione cervello in fuga sia totalmente misleading, cioè è fondamentale che tutti abbiano una esperienza all'estero, secondo me. Il problema vero non è che gli italiani non tornano nel proprio paese. Se si deve parlare di un problema, semmai, è come attrarre talenti di tutto il mondo, non solo italiani, nel nostro paese. Laura invece comincia a sentire la necessità di lavorare anche per ricostruire in qualche modo l'Italia. Come, Laura? Ma io provo a lavorare molto con il mondo dei talenti, sia con delle università, sia con banalmente colleghi più giovani, o aprendo la porta quando serve. È, diciamo, un piccolo passo, una piccola azione, però credo che serva molto lavorare su persone più giovani per costruire un certo tipo di attaccamento. E Federico vede, almeno nello sport, un gap davvero forte di opportunità professionali tra Svizzera e Italia. Perché, Federico? Ma direi piuttosto anche tra la Svizzera e il resto del mondo per quanto riguarda le istituzioni internazionali, perché qui tra Ginevra e Losanna hanno sede il 90% più o meno delle istituzioni, delle federazioni internazionali mondiali, per cui si è sviluppata una specie di Silicon Valley dello sport. Secondo me è un posto unico in cui i giovani da tutto il mondo provengono, tutti con l'entusiasmo e la passione dello sport, a lavorare in questa zona. La nostra domanda di rito per Laura Toia: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. L'Italia viene ancora vista con, non solo da me, ma credo dagli italiani, non solo che sono fuori, come ancora una grande fonte di eccellenze, di tante cose positive, per quanto forse da italiani in Italia ci piaccia molto piangerci addosso, diciamo il post-Brexit, mamma mia, speriamo che cambi poco. Questa è la speranza, diciamo, che si sente più forte da Londra. Credo che molti inglesi si siano resi conto che questo passaggio sia stato un grande errore, se rimaniamo ancora tutti in attesa per capire quali saranno i prossimi passi. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa prima puntata speciale estiva vi stiamo raccontando alcune delle migliori storie andate in onda nel corso della stagione 2016-2017. Storie di professionisti che lavorano ad alto livello oltre confine. Dopo il network Aspen Junior Fellows, che ci ha trasportato in vari punti di questo sterminato pianeta, ci trasferiamo ora negli Stati Uniti per raccontarvi la storia di Fausto Panizzolo, 34enne ingegnere biometrico e ricercatore ad Harvard. Riprendiamo allora l'ascolto. Nome: Fausto. Cognome: Panizzolo. Età: 34. Città di origine: Padova. Studi: ingegneria biomedica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? In Canada. Perché? Per seguire quello che mi piace fare di più, cioè la ricerca. Quale lavoro svolge attualmente? Faccio ricercatore al Biodesign Lab dell'Università di Harvard. Dove? A Boston. Tornerai? Spero di sì. L'Italia non mi ha aiutato, visto che le poche opportunità che mi sono state offerte non corrispondevano alle mie aspettative, anzi molte cose del sistema Italia non le sopportavo più e avevo la forte necessità di vedere altri mondi. Per questo sono scappato nel posto praticamente più lontano dal nostro paese, l'Australia. Qui, con fatica e sacrifici, mi si sono aperte opportunità che mai avrei neppure lontanamente pensato possibili. Fausto, nella prima email che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it, hai delineato il perché hai lasciato la penisola. Quali sono stati concretamente i motivi scatenanti? Un po' due cose. La prima è che ero molto curioso e entusiasta di vedere un paese nuovo e fare un'esperienza diversa. La seconda, che fondamentalmente da un punto di vista scientifico non riuscivo a trovare esattamente quello che mi aspettavo. Nato e cresciuto a Padova, scegli ingegneria biomedica. Alla base della scelta c'era un'idea ben precisa, è vero? Beh, direi di sì, mi è sempre avuto una passione scientifica e per le discipline tra la biologia, la fisica, la matematica. Però mi sembrava che questo indirizzo potesse anche coniugare un altro dei miei desideri, che era quello di poter riuscire a fare qualcosa nel concreto che possa essere applicabile e di aiuto a molte persone. Tra poco ci arriviamo. Che giudizio dai a posteriori della qualità della nostra università da 1 a 10? Ma direi abbastanza alta, direi un 8, anche se magari molti laboratori, molte cose pratiche potrebbero essere migliorate. Hai avuto anche l'occasione di poter svolgere la tesi di laurea in uno degli istituti italiani d'eccellenza, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e ricordi l'esperienza dello sviluppo di un esoscheletro di mano ha fatto scattare in me la grande passione per la ricerca. Anche per questo decidi di proseguire il tuo percorso in università. Diventi assistente di ricerca all'Università di Padova. Per occuparti di cosa? Io mi occupo di analisi del movimento umano. Praticamente studiamo come le persone si muovono, il gesto che può essere per un'applicazione sportiva piuttosto che clinica o riabilitativa, con l'idea di analizzare e realizzare dispositivi che possono aiutare la performance nel caso dello sportivo o la riabilitazione piuttosto che un ausilio nel caso di una persona con problemi motori. Fai una prima esperienza di 6 mesi all'estero a Calgary in Canada, dopodiché decidi di intraprendere il dottorato. Qui avviene il distacco con l'Italia, lo fai per una maggiore crescita personale. Allora, perché scarti le poche offerte italiane e prendi il volo per l'Australia? Onestamente a quel tempo ho cercato di andare quanto più distante possibile, perché ero stanco di un sistema che vedevo un po' lento, ingessato e che sembrava non offrire grosse opportunità. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. In Australia prodi a Perth, University of Western Australia. Come sono stati trasloco e impatto con una terra così lontana? Se ti dicessi che sono stati una passeggiata sarebbe un po' una bugia, perché decisamente non lo sono stati. L'Australia è un bellissimo paese, però è anche il paese che ha il più alto numero di specie animali velenose o mortali, e questo secondo me è un po' un indice della, diciamo, ospitalità particolare di questo posto. E a Perth resti 4 anni, grandissima esperienza professionale e di vita, prima lavori come dottorando, poi come professore a contratto. Di cosa ti sei occupato? Il mio percorso specifico è stato, il mio progetto è stato studiare praticamente la muscolatura di persone affette da insufficienza cardiaca. Nel 2014 ti trasferisci in una delle istituzioni accademiche per eccellenza nel mondo, l'Università di Harvard a Boston, Massachusetts. Come si approda ad Harvard? Qual è stato anche l'impatto in termini di adattamento? Hai cambiato continente? Sì, ho cambiato continente, e contrariamente alla scelta di qualche anno fa, l'ho fatto per cercare di tornare un po' più vicino a casa. Infatti le distanze si sono dimezzate e anche il tempo, insomma, per tornare in Italia. Ma come si approda? Io sono approdato in maniera molto semplice, nel senso, avevano un opening, avevano un'offerta per una posizione, ho fatto domanda e ho preso posto. Puff, facile, fosse così anche in Italia. Attualmente di quale progetto ti occupi, con quali finalità? Allora, al momento stiamo realizzando un esoscheletro basato su tessuti indossabili che possa aiutare le persone a camminare, per dare magari un'idea un po' più precisa al pubblico, una specie di tuta di Iron Man, per cui le persone indossandola riescono a camminare facendo meno fatica. Piccola nota, a Boston co-gestisce una comunità di italiani di cui ci siamo già occupati in passato, PIB, professionisti italiani a Boston. Chi siete? Qual è un po' l'identikit dell'expat italiano nel Massachusetts? Siamo parte di questa associazione la cui età media, diciamo, è sui 40, sono tutti immigrati, diciamo, qui subito dopo la laurea, insomma, quindi persone che hanno vissuto in Italia e con radici in Italia, e occupano le professioni più svariate, anche se con una prevalenza dal punto di vista ricerca o scientifico, essendo questa un'area molto fertile per questo motivo. Fausto, per te la nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Forse sono un po' di parte, però penso che proprio persone che hanno fatto esperienze in giro per il mondo e soprattutto che hanno visto cose differenti potrebbero essere una grossa risorsa per il nostro paese, per provare a cambiare un po' le cose che non vanno, e personalmente ne conosco tanti. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Sicuramente consiglierei di andare assolutamente per fare un'esperienza, più che per come via d'uscita, per fare un'esperienza soprattutto da un punto di vista personale prima ancora che professionale.